Radio 24 Reportage. La struttura della capitale, in questo sito, somiglia molto a una cattedrale, con tre navate. Anche la terra ha voluto fare la sua parte e nei secoli quella cava di tufo nel quartiere Sanità si è lasciata plasmare dalla natura fino ad apparire come una cattedrale gotica a tre navate. Napoli si preparava ad accogliere nel suo ventre i resti di quanti, morti per pestilenza, vennero trasportati in questa enorme fessura e qui poi, quasi a risarcimento della mancata sepoltura, furono dalla città stessa, ciascuno singolarmente, adorato, curato, fino a diventare destinatario di un culto che non trovò interruzione nemmeno col divieto della Chiesa. Entriamo nel cimitero delle Fontanelle. Migliaia di occhi di anni lontani seguono i passi di chi entra in questo grembo profondo della città e quasi inconsapevolmente ciascuno abbassa la voce. Leggende secolari, superstizioni mai appannate, anzi aggiornate con i tempi, riempiono con le loro voci di dentro il silenzio di queste navate senza altare. Siamo davanti a questo teschio, sempre questa leggenda, una coppia, un ragazzo e una ragazza si misero a fare l'amore. Il teschio fece un segnale. Non era il luogo adatto a fare questo. Questo se ne fregò, però poi dopo venne punito da questo capitano facendo morire a questo ragazzo che tra l'altro era un malavitoso. C'è una foto frontale, mostra una sorta di lividura sotto l'orbita sinistra. Secondo questa leggenda, questo luogo era anche luogo di incontro per gli innamorati. C'era questa ragazza che si occupava di un teschio, il fidanzato quasi per scherno lo colpì con un bastone nell'orbita che si illividì e lo sfidò a presentarsi al loro prossimo matrimonio. Cosa che puntualmente, secondo la leggenda, questo personaggio fece. Alla fine della cerimonia, quando gli sposi erano rimasti soli, si manifestò e mostrò la sua natura di schiero aprendo il cappotto e quindi determinando la morte per spavento. Il teschio del capitano è quello con la lividura, la testa che suda è quella che sembra tuttora sorridere. Cammini per decine di metri sottoterra in una luce resa aurea dal riflesso del tufo e senti l'eterno cunto degli cunti di questa città, tramandata soprattutto di madre in figlia. Nelle cassette di legno, di ferro, semplici o decorate, nelle nicchie pregiate o improvvisate, come la scatola dei biscotti Russo con la scritta ancora perfettamente leggibile, famiglie intere hanno adagiato il loro teschio adottato. Troviamo del ferro, fino a qualche scatola di biscotti Russo, fatta dai biscotti Russo, però è uscita, molto particolare, in quanto sembra fatta apposta. E al passante che attraversa oggi questa caverna secolare sembra di percepire ancora l'elenco dei favori chiesti, implorati alle anime del purgatorio, in mezzo a preghiere salmodiate e talvolta anche pagate. Bigliettini per grazia ricevuta pendono così ancora oggi dalle urne delle famiglie riconoscenti. Questa è Napoli, questo è il popolo di Napoli e se non si porge l'orecchio a queste voci non si entra nell'anima della sirena. Anche perché qui sotto tutto è proprio come sopra, furbizia compresa, come ci racconta ancora Antonio Piedimonte. Fino agli anni 60 la presenza al cimitero delle Fontanelle era di dimensioni notevolissime. Era stata allestita addirittura una linea tranviaria dedicata. Ci sono testimonianze letterarie appunto di scrittori stranieri che raccontano questo viaggio in tram, questo tram che attraversa la Sanità e poi tutto quello che trovavano. C'erano i pregatori a pagamento, c'erano altri che dirigevano le preghiere di gruppo e poi c'erano le persone che erano adibite, come dire, a sovrintendere, perché ogni tanto, che ne so, si creava anche la situazione un po' tipo la signora che aveva perso il suo teschio, altri che ne prenotavano qualcuno perché non c'era. Perché c'è anche una specie di regola, no? Per il tipo di grazia che si chiede. È proprio il meccanismo del culto che funziona in questo modo, cioè il teschio viene identificato come un'anima, quindi viene ricostruita una storia. Non dobbiamo dimenticare che tutto nasce nel 1656 con le catombe della peste. La città rischiava di perdere la memoria. memoria e quindi si perde identità. Ma quindi la famiglia va alla ricerca dei resti di un proprio caro oppure uno no. qualsiasi, diciamo? No, non cercavano un proprio caro, cercavano qualcuno a cui dedicare le proprie preghiere. Il Dout Des era: io mi prendo cura di te, sia fisicamente, cioè pulendo il teschio, lucidando il teschio, mettendoci intorno una cassettina di legno, eccetera, eccetera, sia da un punto di vista religioso, pregando per te in modo da agevolare il passaggio dal purgatorio al paradiso. Tu in cambio però agevoli le nostre attività terrene. Infatti c'è chi dice che ora in tempi di crisi non solo ci sia stata un'intensificazione, ma si prevede che ci possa essere, come dire, un avvicinamento verso questo tipo di culto anche di persone che ne sono state un po' più lontane. Questo ha a che fare con l'essenza dei meccanismi psicologici umani. È un momento di tranquillità interiore, certezza rispetto alla paura di un ignoto che incombe perennemente. A Napoli incombe più di altrove, naturalmente, ma non solo perché c'è il rischio di essere rapinati e uccisi fuori alle fontanelle o in qualsiasi altro pezzo di strada della città, ma perché siamo comunque una città sospesa su due aree vulcaniche attive, il Vesuvio da una parte, i Campi Flegrei dall'altra. Siamo tutti figli di questa paura perenne. Ci sono degli altri posti nella città dove questi segni del culto delle anime del purgatorio sono stati identificati? Sotto Piazza del Carmine c'erano per esempio queste enormi fosse per il grano. In una di queste furono accumulate qualcosa come 50.000 corpi. Quello che è rimasto purtroppo non è moltissimo, perché la chiesa è intervenuta. E i preti locali lo ostacolano, lo assecondano? Adesso non voglio mettere in difficoltà nessuno, però per esempio sotto San Pietro ad Aram, mi ricordo l'ultima volta che sono sceso sotto San Pietro ad Aram, ricordo che era vietatissimo il culto, era vietatissimo tutto, era vietatissimo fotografare, però poi entravi e la prima cosa che vedevi era una bancarella enorme gestita dal custode dove si vendevano i lumini, dove c'erano sistemati teschi, avevano murato, e però in dei punti sul muro bianco, davanti al muro bianco, c'erano 3-4 lumini. Il teschio stava dietro, è stato solo murato. Quindi di madre in figlia, di nonna in nipote, è rimasta questa cosa che si scendeva e si posava il lumino. Quindi culto vietatissimo, ma lumino venduto anche a un prezzo, diciamo, non proprio popolare. Fatta la legge e trovato l'inganno, la massima sovrana di Napoli dunque non risparmia neppure la sfera della fede, anzi il rapporto è così stretto che la lingua partenopea è profondamente impregnata di espressioni che riportano in auge, spesso declinate sotto forma dei peggiori insulti, antiche usanze, come quella di appendere i corpi dei morti nei colatoi. Esposito ce li mostra sotto Piazza Cavour. I tre tipi colatoi, o seduti, o messi sdraiati, oppure messi appesi. Se il morto veniva messo lì dentro e poi si aveva l'accortezza di andarlo a bucare, questo in carta pecoriva. Il processo della mummificazione. Della mummificazione. Tant'è bene che a Napoli il salmataro, quello che interrava i morti, poi viene chiamato o schiattamurt, perché andava a bucare, andava a schiattare i morti. E a Napoli, quando si vuole mandare qualcuno all'aldilà, non si dice più pozzo morì, ma si dice pozzo sculà. Questo tipo di colatoi si trovano solo in alcune cavità o i poggei che stanno sotto le chiese di Napoli, si stanno nelle catacombe di San Gaudioso, si chiamano cantarelle. Cioè questo tipo di interrare i morti sta pure nel cimitero dei Cappuccini di Palermo. I morti stanno come nel cimitero delle Fontanelle, semplicemente che li hanno distinti per caste, il che diviene meno il culto religioso, che con la morte si vendono tutti uguali a livello di Totò. Un'interminabile caccia al tesoro nella storia della città, tra le tracce degli antichi popoli che la fondarono, misteriosi dei mai messi davvero in soffitta e costanti superstizioni. È questo camminare nei cunicoli della Napoli sotterranea, un'avventura sorprendente, come la magia di ritrovarsi nella cavea del grande teatro greco della città, spostando il letto di un basso napoletano, abitato fino a poco fa da due anziani. E da fuori, dagli angusti angusti vicoli di via dei Tribunali nel Decumano Maggiore, segui con lo sguardo l'andamento tondeggiante dei palazzi e riconosci le originarie gradinate inglobate nei secoli dalla mucchiata di case, e in molte oggi hanno in salotto tracce di quelle gradinate su cui 2000 anni fa centinaia di spettatori dovettero restar seduti ad ascoltare la performance di Nerone, anche se in pieno terremoto. E lo scrigno di sorprese del sottosuolo napoletano è ancora ricchissimo, perché ancora tanto ci sarebbe da scavare, come ci spiega, carte alla mano, Clemente Esposito. Noi abbiamo rilevato a Napoli 1 milione di metri quadrati. Io dico, da studi, che siamo solamente a un terzo delle cavità rilevate, che significa che ce ne stanno ancora altri 2 milioni da scoprire. Noi siamo qui, questa è la nostra cavità. Questa parte non scavata, che zona di Napoli sarebbe? Questa è la parte che dovrebbe essere ancora più scavata, perché è la parte dei vergini, che sta la sanità ai vergini. Gli antichi vergini erano una sette greca che si chiamavano i vergini perché erano dediti alla virginità. Queste che sono già fuori vuol dire che erano quelle che hanno conservato una certa utilità. Dunque è arrivato a Napoli, ha trovato nel sottosuolo tutto ciò che serve per costruire. Il vuoto che così rimaneva veniva intonacato e veniva usato come cisterna pluviale. Gli acquedotti a Napoli sono stati 3. È stato l'acquedotto greco, che risale già al 400 avanti. Poi c'è stato l'acquedotto romano fatto nel periodo augusteo, e poi c'è stato nel 1600 l'acquedotto del Carmignano. Questa, per fortuna nostra, qualcuno ci ha buttato dentro una mini minor, una macchina, nel pozzo, nell'occhio di monte, no? E quindi la macchina ha ostruito l'occhio di monte e ci ha dato la possibilità, cioè non è stata più riempita. Fino al 1885 l'acquedotto ha sempre funzionato. Con la Seconda Guerra Mondiale tutte le città hanno dovuto attrezzarsi con dei ricoveri. Napoli è stata fortunata perché sotto ogni palazzo teneva le cavità, e quindi queste cavità sono state adibite a ricoveri. E in una grotta trovò rifugio e salvezza l'ebreo raccontato da Henry De Luca nel suo ultimo romanzo, l'ebreo scappato alle razzie dei nazisti sul finire della Seconda Guerra Mondiale. E qui, poi, in questo nascondiglio del palazzo, finì, anni dopo, il pallone del protagonista del giorno prima della felicità. Qui, in queste che Henry De Luca chiama le gonne della città. Napoli è una città che è piena di nascondigli, perché è stata scavata sotto, ma talmente piena di cavità sotterranee da farmela immaginare come una città campata in aria, cioè che si regge sul vuoto. Dentro questo vuoto la spinta dei terremoti si sfibra e arriva più delicata, più morbida. Il tuffo è una materia che io poi ho trattato molto spesso nella mia esperienza di muratore. È una materia così morbida che si può perfino tagliare con la sega per modellarla. E però è una materia invincibile, che alla lunga non sopporta l'intonaco. La sua natura di tufo, che è una pietra libera vulcanica, che espelle quella protezione. E io mi sono immaginato anche che il tufo sia la materia di cui è fatta quella città e i suoi cittadini, e l'intonaco quei poteri sempre precari, provvisori, che stendono il loro strato ma che non riescono a attecchire in profondità e che poi vengono regolarmente buttati via dal tufo che riemerge nudo al di sotto. Dormire dentro una casa di tufo non è come dormire dentro una di queste stanze nostre. Il tufo è una materia antica, viva e respira. Chi ci ha piantato dentro i propri sonni ha un rapporto con la terra che è diverso, un rapporto più intimo con la terra, la rispetta di più, perché sa che quella terra lo può buttar fuori, prendere a calci in ogni momento. Il napoletano è di suo precario e ha inventato il verbo tenere al posto del verbo avere, perché avere è un verbo legale, anche un po' presuntuoso, mentre tenere è di chi sa che un po' tiene, qualche volta però insomma gli viene scippato di mano quello che tiene. Nella sua infanzia, nella sua vita a Monte di Dio, a Napoli, questi racconti di questa Napoli sotterranea erano il fascino di qualcosa di nascosto? Che cosa rappresentavano per voi? Beh, intanto la voce delle donne che raccontavano aveva un fascino di nascosto, e poi c'è da noi quella intimità con il sottosuolo. dopo l'8 settembre, quando i tedeschi a Napoli sono i padroni e pretendono che si consegnino tutti i maschi tra i 18 e i 33 anni, se ne presentano 120. Dunque tutta quella città maschile era clandestina e naturalmente nascosta sotto le gonne della città, così erano quelle cavità, delle gonne in cui si nascondevano gli uomini, pronti però a scattar fuori alla fine di settembre, quando parte la scintilla della insurrezione.